Io sono Sergio Pistoi, questo è divulgazionescientifica.it e abbiamo il piacere di avere come ospite Michele Luzzatto, che è, oltre ad essere editor della famosa casa editrice Einaudi, editor scientifico, è anche scrittore ed ha pubblicato di recente un libro di cui si è molto parlato. Il libro si intitola Preghiera darwiniana, è stato presentato, se non sbaglio, Michele, ciao Michele, anzitutto, ciao. È stato presentato al Darwin Day a febbraio, giusto? A Milano, esatto. A Milano. È stato letto da Lella Costa per intero, dalla prima all'ultima pagina, in una interpretazione memorabile. E quindi io mi asterrò dal leggere brani di questo libro per non fare brutta figura. È stato appunto presentato con grande riscontro anche da parte della critica. E il tema è particolare e adesso ne parliamo appunto con Michele. Anzitutto, Michele, cominciamo dal titolo, Preghiera darwiniana, che sembra un ossimoro. Sì, è un po' un ossimoro, in effetti sono due cose che, come dire, nella stampa e negli interventi che si sentono nel mondo sembrano essere molto distanti. Da un lato c'è Dio, dall'altro c'è Darwin, sembrano essere due personaggi inconciliabili tra loro e invece io penso che non sia così. Non sia così non perché io sono un credente, cosa che non sono, ma non sia così perché sia le preghiere, la religione, Dio e tutto quanto ha a che fare con la spiritualità è ben più complesso di come viene detto troppo spesso semplificando, sia il darwinismo non è quella cattiva ideologia materialista, atea e mangiapreti come viene presentata spesso da taluni. E allora, nel tuo libro tu approfondisci questo concetto facendo, e per essere un non credente, insomma, di religione, te ne intendi, facendo un parallelo fra Darwin e Giobbe e Giacobbe. Ora, per chi è un po' digiuno di religione, come il sottoscritto purtroppo, puoi spiegarci un po' meglio in che cosa consiste questo parallelo? Dunque, un piccolissima premessa, essere credenti o non credenti è una questione che attiene appunto alla fede di ciascuno e alle proprie intime convinzioni. La religione è ben altra cosa, la religione è un'espressione sociale con una sua realtà storica ben presente nel territorio, nella storia, ed è una materia affascinante da studiare e da conoscere e da comprendere. Da questo punto di vista la Bibbia per me è un bellissimo libro, che si crede o non si crede in Dio, è un libro che secondo me andrebbe letto e ci si trovano all'interno delle cose interessanti. Due di queste cose sono quelle che io ho provato a mettere in risalto e in relazione con Darwin. Da un lato un episodio molto famoso che si trova nel libro dell'Esodo, per cui Giacobbe, di ritorno dalla terra di Canaan con le sue spose, ricco e rispettato, ritorna da fuori dalla terra di Canaan, ritornando alla terra di Canaan, ha paura del suo incontro con il fratello Esaù, che aveva tradito quando era ancora un giovinetto, ovviamente per il noto episodio della minestra di lenticchie. E quindi si ferma alle porte della terra di Canaan perché non sa bene come verrà preso il suo ritorno dal fratello che è rimasto lì, e durante la notte dell'attesa prima di entrare nella terra di Canaan si trova attaccato da qualcuno, e questo qualcuno è Dio, esplicitamente Dio nella Bibbia, e lotta con lui, lotta pesantemente, lotta davvero a pugni e schiaffi, e lotta talmente tanto che alla fine Dio lo colpisce piuttosto violentemente e gli storpia il nervo alla gamba, lo lascia zoppicante per il resto della vita. Questa lotta viene spesso considerata come un confronto diretto tra l'uomo e Dio, e questo confronto diretto viene visto non in maniera negativa da Dio stesso, anzi Dio stesso dopo la lotta dà a Giacobbe il nome di Israele, gli dice non ti chiamerai più Giacobbe ma ti chiamerai Israele, colui che ha lottato con Dio. In ebraico proprio Israele vuol dire colui che ha lottato con Dio, e in qualche modo sembra, una delle interpretazioni, ne sono state scritte molte, ma una delle interpretazioni è che l'uomo dotato di libero arbitrio non solo ha la possibilità, ma in qualche modo viene visto con buon occhio da parte della divinità nella Bibbia il suo confrontarsi liberamente con lui, porre a Dio le proprie ragioni e combattere perché le proprie ragioni vengano accolte dal Signore. Quindi abbiamo avuto una breve interruzione, chissà che qualcuno dall'alto non ci abbia messo lo zampino, Stavamo parlando, Michele, di Giacobbe che le aveva prese, che aveva sfidato Dio e, c'è poco da stupirsi, l'aveva prese di santa ragione, però Dio, dicevamo, lo tutto sommato, in questo modo conquista, per così dire, il rispetto di Dio. Accidenti, Dio addirittura gli dà un nuovo nome, come dicevamo, lo battezza in qualche modo Israele, il nome poi è quello che diventerà il nome dell'intero popolo che da Giacobbe prenderà origine, per cui di fatto il popolo di Israele è il popolo di coloro, o almeno questa è una delle possibili interpretazioni, il popolo di coloro che osano o hanno il coraggio di contrapporsi a Dio, non è poco. E Dio sembra apprezzare questo, sembra apprezzarlo anche in un altro personaggio biblico, che è il secondo che prendo in considerazione nel mio libro per portare avanti il mio discorso, ed è il personaggio di Giobbe. Il libro di Giobbe è un libro molto più tardivo, parla di un personaggio ricco, rispettato, potente, timorato di Dio, il migliore dei servi di Dio sulla terra, viene citato più volte con questo epiteto, e Dio in qualche modo vuole, accetta una sfida che gli fa un suo angelo che si chiama Satan, ma non è il diavolo, nell'ebraismo non esiste il diavolo e non esiste l'inferno, è un angelo che ha quel nome lì. E la sfida dell'angelo è chiara, gli dice: bella forza essere timorati di Dio quando si è così in vista, benestanti e potenti, vediamo se lui continua a rispettarti anche se io lo colpisco e gli faccio qualche scherzo. E così, col permesso di Dio, l'angelo Satan colpisce Giobbe e gli fa perdere tutto, gli fa perdere i figli che muoiono, gli fa perdere le ricchezze che perde nel giro di una giornata, la servitù, dopo gli fa perdere anche la salute, di Giobbe rimane una larva umana, e nonostante tutto ciò Giobbe non pecca e non maledice Dio con la sua bocca, ma vuole però interrogarlo, cioè capisce che è successo qualcosa e si domanda come sia possibile che Dio, che ama le sue creature, soprattutto ama quelle rette e giuste come lui, si sia, accanito. Sì, accanito contro di lui, nonostante lui sappia intimamente di non aver commesso alcun reato, niente di sbagliato. E questa è la domanda dell'intero libro biblico di Giobbe, per cui arrivano tre amici che cominciano a interrogarlo, a domandargli o a tenerlo su, a cercare di capire assieme a lui come sia possibile che queste disgrazie siano capitate proprio a lui. E i tre amici, chi più chi meno, tutti e tre non credono nella rettitudine di Giobbe e continuano a dire: beh, insomma, se Dio ti ha fatto tutto questo e Dio, essendo giusto, non può farlo alle persone giuste, evidentemente tu qualcosa di sbagliato devi avere, qualche peccato lo avrai commesso. Giobbe invece no, non ci sta, dice che lui non ha commesso alcun peccato, che lo sa benissimo, che riguarda lui e lui soltanto, e quindi oppone a Dio, di nuovo come Giacobbe, le sue ragioni e vuole interrogare Dio direttamente per sapere per quale motivo è stato colpito così duramente. In un caso molto raro succede, perché non è frequente nella Bibbia, che Dio a un certo punto interviene direttamente e parla direttamente. Parla direttamente e se la prende inizialmente con Giobbe e gli dice sostanzialmente: cosa ne vuoi sapere tu? L'universo l'ho fatto io, come osi mettere in discussione i miei piani? Però a un certo punto in qualche modo lo scagiona e gli dice: beh, in effetti hai ragione tu, più di quanto non abbiano ragione comunque i tuoi amici, che per difendere me hanno anche negato l'evidenza del fatto che tu sai benissimo di non aver commesso reato. E quindi in un qualche modo Dio si dimostra decisamente più benevolo nei confronti di Giobbe, che a lui opponeva le sue ragioni, piuttosto che nei confronti dei tre amici di Giobbe, che invece si affidavano a Dio in tutto e per tutto. E questa è un'enorme lezione al giorno d'oggi, secondo me, che viene dalla Bibbia, una lezione anche di laicità, se vogliamo, bellissima, che io trovo molto affascinante e che dovrebbe essere letta con molta attenzione da quanti in maniera dogmatica e acritica difendono certi dogmi delle varie chiese del mondo senza porsi questioni più profonde su come va il mondo. Tra questi, quelli che se la pigliano con Darwin, cioè, e questo è il parallelo, contro ogni evidenza e al di là di ogni ragionevole dubbio, dato il fatto che il darwinismo e l'evoluzione sono discorsi scientifici ormai talmente ampiamente dimostrati che è difficile che vengano smentiti in futuro, pur di non negare un certo pur di non negare alcune peculiari caratteristiche di Dio, alcune persone molto dogmatiche, molto poco laiche, cercano di come dire, chiudersi gli occhi e non vedere quello che la scienza gli pone davanti al naso, e cioè che l'evoluzione c'è stata ed ha funzionato con i meccanismi che Darwin aveva scoperto nel 1859. E come Giobbe e Giacobbe, anche Darwin, così come emerge nel tuo libro, non fu trattato molto bene dalla sorte, al di là dell'esistenza di Dio o meno, ma comunque non ebbe una vita particolarmente fortunata, la perdita della figlia in tenera età, lui stesso era malaticcio, quindi questo parallelo fra Darwin e questi due personaggi biblici lo possiamo evidenziare anche, diciamo, nella biografia di Darwin. Eh sì, Darwin era stato un uomo malato per tutta la sua vita, al ritorno dal suo viaggio intorno al mondo cominciò a manifestare qualche sintomo e andò in cura, per le cure che potevano esserci all'epoca piuttosto strane, più volte, ma non si riuscì mai a capire bene che cosa aveva. Era un uomo malato e non riusciva tanto a presentarsi in pubblico, se ne stava soprattutto nella seconda parte della sua vita rinchiuso nella sua down house, che era la sua residenza all'epoca lontana da Londra, oggi nella periferia londinese, ma all'epoca era piuttosto lontana dall'ambiente sociale londinese. E inoltre, quando gli morì la figlia Annie, lui ebbe un contraccolpo enorme, perché questa figlia, che era sicuramente la sua preferita, a 10 anni morì probabilmente di tubercolosi, e in qualche modo in lui, evidentemente, si vede nei suoi appunti personali, scattò qualcosa e si allontanò definitivamente dalla religione e pensò che poteva, come dire, esporsi, anche se sapeva perfettamente che le idee che stava covando erano in qualche modo considerabili empie e pericolose nel mondo religioso nel quale viveva. Qual era più in generale il rapporto di Darwin con la religione? Era un rapporto, lui ne parla molto esplicitamente in maniera molto sincera nella sua autobiografia, che è un'autobiografia che lui ha scritto senza interesse di pubblicazione, quindi è sincera, intima, vera. E lui è stato educato in una famiglia strana, perché erano delle persone progressiste, tutti i suoi familiari faceva parte di una sorta di sodalizio tra due famiglie, quelle dei Darwin e quella dei Wedgwood, che erano stati degli antischiavisti in epoche come dire, in cui essere antischiavisti non era proprio di moda. E quindi quello che noi definiremmo progressisti? Decisamente sì, decisamente lui faceva parte della parte progressista della società, sempre tenendo presente che era comunque nell'Inghilterra vittoriana ed era una persona ricca della agiatissima borghesia, alta borghesia, per cui progressista ma in doppio petto, insomma, non era certo un operaio delle fabbriche di Manchester, era un uomo ricco e abituato ad essere un uomo ricco. Lui inizialmente pensava anzi addirittura di fare il pastore anglicano e di ritirarsi in qualche parrocchia di campagna per coltivare i suoi studi di scienze naturali. Poi piano piano sentì allontanare il proprio interesse verso la religione, che aveva peraltro ricevuto soprattutto dal lato femminile della famiglia, anche se era rimasto orfano di madre molto giovane, perché invece suo padre era probabilmente un materialista non scoperto, diciamo, non confesso. Sta di fatto che piano piano lui si allontanò dalla religione e dall'idea di Dio che all'epoca imperava nell'Inghilterra dell'Ottocento, però aveva sposato la cugina Emma Wedgwood, che invece era una pia donna molto credente e che in qualche modo faceva da contrappeso in famiglia, per cui i suoi figli venivano comunque educati in maniera religiosa molto seriamente e molto strettamente. Era lui che si era allontanato, addirittura lui andava in chiesa, andava tutte le domeniche, accompagnava la famiglia, ma non si alzava in piedi, dice nei suoi appunti, fino alla morte della figlia Annie. A quel punto non è più andato, non è più entrato in chiesa, non se l'è più sentita. Ci è poi paradossalmente rientrato da morto, perché quando morì venne proposta e accettata e accolta subito la sua inumazione nella cattedrale di Westminster accanto a Newton, quindi è a tutt'oggi seppellita in chiesa, paradossalmente. Quindi abbiamo visto uno spaccato proprio dalla alfa all'omega di Darwin, che però ci aiuta a capire anche il suo pensiero scientifico, perché chiaramente la sua opera non può essere disgiunta da quella che è stata la sua storia personale. L'ultima domanda che ti voglio fare è, secondo te, perché le teorie di Darwin, che sono vecchie ormai di 2 secoli e che ormai sono chiaramente accettate dal punto di vista scientifico e che non mettono in discussione alla fine l'esistenza di un Dio o di un essere supremo, ma semplicemente, se vogliamo, la modalità con cui si può esprimere la volontà divina da un certo punto di vista. Secondo te, perché hanno ancora questa, suscitano ancora tante resistenze da parte di alcune persone, alcuni Io, credenti? per dire le cose esplicitamente, la resistenza proviene dagli ambienti più dogmatici e più fondamentalisti, integralisti, nel senso anche buono, non stiamo parlando di terroristi per carità, stiamo parlando di persone che hanno un forte senso dei fondamenti della religione e sono molto poco propense a mettere in discussione il proprio pensiero. In questo senso sono dogmatiche, nel senso che sono rigide, pensano che esistano delle verità assolute da difendere contro ogni evidenza e se la natura, la filosofia, il linguaggio, qualsiasi cosa sembra opporsi alle loro visioni preconcette, tanto peggio per la natura, deve essere sbagliata lei perché hanno ragione loro, cioè sono poco per l'appunto flessibili certe persone, anche di potere in questo momento nel mondo. Che cos'è che dà fastidio? Dà fastidio il fatto che nella teoria darwiniana sostanzialmente non esiste più una provvidenza riconoscibile, perché la selezione naturale non ha una finalità e un'intenzione. E quindi l'evoluzione del mondo biologico, gli animali e le piante, hanno avuto un percorso che non era neanche a priori e neanche teoricamente prevedibile. Da ciò ne deriva che l'essere umano, l'uomo, noi, non siamo necessari, siamo insorti per selezione naturale e per evoluzione su questa terra, ma potevamo anche non insorgere, poteva esserci qualche altra specie al posto nostro, con un'ecologia differente del pianeta. E quindi ogni visione provvidenzialistica che punta tutta la sua morale sulla nascita e perfezione dell'uomo, fa fatica a trovare albergo in una concezione come questa. Sta di fatto che noi stiamo parlando di una delle tante possibili concezioni di Dio, che è quella Certamente. più appunto dogmatica, derivata dal pensiero, diciamo in maniera più ampia possibile, giudaico-cristiano. Ci sono tante altre visioni possibili di Dio e della divinità e della trascendenza che invece non cozzano in alcun modo con la visione selezionista darwiniana. Dal panteismo allo spinosismo alla trascendenza pura, più prossima semmai all'Islam che al cristianesimo o all'ebraismo, ad altri tipi di Dio, perché dire Dio, come è fatto questo Dio, dargli degli attributi, ed è lì che inizia lo scontro, più teologico ovviamente che altro, è uno scontro tutto interno al mondo delle religioni. Certo. A proposito di religioni e di chiese, qual è l'atteggiamento ufficiale, se mai una delle chiese si è pronunciata riguardo alla teoria darwiniana? Per esempio, la Chiesa Cattolica, si è mai pronunciata recentemente a favore o contro in modo Sono chiaro? ormai 3 o 4 anni, 5, che c'è un dibattito serratissimo nell'ambito della Chiesa Cattolica, la quale a sua volta, nonostante abbia una struttura gerarchica molto precisa, è molto variegata al suo interno. Per cui all'interno della Chiesa Cattolica noi troviamo alcuni ambienti, alcune voci possibiliste nei confronti di un naturalismo filosofico proposto da Darwin e attraverso il darwinismo da molti filosofi contemporanei. E invece delle voci radicalmente di opposizione, tra le quali quella per esempio molto influente del cardinal Christoph Schönborn di Vienna, che scrisse, cos'è, ormai un anno e quasi 2 anni fa, un anno fa, scusa, un articolo molto importante e influente sul New York Times che sostanzialmente appoggiava la dottrina del disegno intelligente, che è una dottrina parascientifica che certi ambienti del fondamentalismo americano, particolarmente di matrice protestante, stanno cercando da svariati anni di portare anche nell'aula dei tribunali in auge da opporre al darwinismo. Per ora sono stati sconfitti da tutti i tribunali, ma non è mai detta l'ultima parola. su cui teoria del disegno intelligente, su cui potremmo spendere un'altra intervista separata, perché forse è una dimostrazione di come cambiando le parole e cambiando i termini con cui si disegna una cosa si può addirittura cercare di spacciare qualcosa per scientifico. Il gioco è quello, addirittura sono stati scoperti certi trucchi in alcuni testi per cui sono state proprio cambiate con un copia e incolla delle parole da creationism a intelligent design, e in questo modo si pensava di cambiare completamente i concetti, ma il resto della pagina restava uguale, ed è un trucchetto veramente da maghi della domenica, cioè purtroppo però mezza America in questo momento è impegnata proprio su questo fronte, perché sono molti gli interessi di molte persone per introdurre l'insegnamento del disegno intelligente nelle scuole al posto o in concomitanza con quello dell'evoluzionismo scientifico. Ripeto, la cosa è andata nelle aule di più di un tribunale, per ora non è mai passata in maniera ufficiale, però la battaglia è ancora lunga, insomma. Allora ringrazio Michele Luzzato per questa interessantissima chiacchierata, che non mancherà, credo, di suscitare qualche commento da parte dei lettori del blog, che sono sempre pronti a commentare nel bene e nel male post di argomento appunto darwiniano evoluzionistico, quindi rimando ai nostri lettori per commenti e note su quello che ci siamo detti con Michele, e per il resto rimando al libro di Michele, Preghiera darwiniana, lo ricordo, per i tipi di Raffaello, Cortina Editore. Grazie ancora Michele, a presto.